trasmissione sino alle 22:30 e poi ci sarà 25 o'clock che andrà a concludere anche questo 6 ottobre del 2021. Il sito internet per ascoltarci è www.ondarossa.info. Nel sito della radio ci sono anche le numerose modalità di adesione per quanto riguarda il finanziamento di questa emittente che ormai dal 1977 è assolutamente autogestita e priva di qualsivoglia forma di pubblicità. Rapidi saluti, Nicola Locci di Stigmate e Maia in Sardegna, Tabula Rasa, Cecilia Miradoli di Pindar, Alberto Clipper di MDMA, progetto molto interessante di area elettronico industriale, Laura Spirit Crusher. E poi Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta, Sandro Bergamo che non so da dove ci sta ascoltando, forse Roma, se non ricordo male, al pari del buon Like Wake. Un saluto anche ad Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster, Lucia Cagliazza Lupsi a Udine. Isa Etual, Wurnus Eileen, Daniele Ciullini, anche lui pezzo di storia industrial nostrano. E dall'Italia andiamo ad iniziare, lo facciamo anche per questa sera con Phantom Ship di Roberto Faloci. E i più affezionati ascoltatori sanno le potenzialità e l'abilità di questo artista, autore di ottimi texture ambient, space siderali. Questo è l'esordio del 2014, scaricabile anche in free download dal suo profilo Bandcamp, e ci ascoltiamo Premonitions of Collisions parte 1. Anzi no, la parte 2 questa sera ci andiamo ad ascoltare, Phantom Ship. Inizio di prove tecniche di trasmissione improntato su queste atmosfere decisamente siderali e dilatate, adattissime per un ideale e moderno film, per esempio di fantascienza, magari una rivisitazione sul genere, per esempio 2001 in sé nello spazio. Phantom Ship di Roberto Faloci, da questo lavoro d'esordio ormai di qualche annetto fa, peraltro l'ultimo lavoro di Phantom Ship, credo il quinto album del 2017 che ci siamo sentiti qualche tempo fa, quindi speriamo in qualche nuova uscita. Ed ora qualcosa di in qualche modo simile, anche se c'è sotto traccia un minimo di teatralità che è data dallo stesso protagonista, ossia da Mario Lino Stancati, attore anche oltre che musicista e protagonista di questo compendio dal nome Portraits, che vede tre sezioni dedicate allo stesso Stancati, a Gabriele Gasparotti e Daniele Ciullini. Portraits è uscito recentemente per la Nespresso Sounds Group di Raffaele Pezzella, come tutti sanno, e di questa parte dedicata a Mario Lino Stancati andiamo ad ascoltare Franava due metri più in là e Sanguine quarendi reditus. Intanto qui il buon 25 o'clock entrato Orrore Radio mi fa notare tre preziosissime regali per il sottoscritto, uno di proprio di Raffaele Pezzella, guarda un po', non me ne ero accorto. Torniamo a noi, a Portraits, dunque ci andiamo ad ascoltare questi passaggi di Mario Lino Stancati. l'algido, straniante regno di umori kraut rock, la parte riguardante Mario Lino Stancati di questo Portraits. Questa opera è gestita da questi tre musicisti, appunto Mario Lino Stancati, Gabriele Gasparotti e Daniele Ciullini. Ne ascolteremo un'altra porzione anche il prossimo mercoledì. E comunque rimaniamo in Italia. Adesso una realtà che ho scoperto personalmente da pochissimo tempo. Si chiamano Blocco Nero. Provengono da Milano e hanno, come dire, omaggiato Ottobre, il famoso film di Eisenstein che parlava della rivoluzione russa. Togliere i morti. E loro hanno, come dire, voluto sottolineare con un interessante commento sonoro quell'evento. Sono poi i bellissimi troni. Ci ascolteremo la traccia numero 5, appunto, di questo Ottobre. Anche questo lavoro si può scaricare in free download dal loro sito Bandcamp. Questo lavoro uscì nel 2020. Poi faremo un passo indietro perché ci andremo ad ascoltare il loro, un pezzo del loro esordio che si chiamava Appello numero 1 del 2013, più improntato al neofolk, che si apriva con La Gioia Armata, Blocco Nero. Tutta la vita e avranno oubliato. Un saluto a Progetto No Name con Dario Righi e Sara K.O. Fontana. Thank you. Questo era l'appello numero uno, con sottotitolo Il primo appello alle coscienze rivoluzionarie di Blocco Nero. E da questo lavoro del 2013 ci siamo ascoltati la prima traccia, La Gioia Armata, che è stata anticipata invece dall'ultimo lavoro del 2020, Ottobre, scritto in cirillico, con l'altrettanto numero 5, scritto anche lui in cirillico. Dunque, Blocco Nero tra industrial, ambient e molto neofolk, con considerazioni che vanno un po' a sfatare certi luoghi comuni del neofolk e il sottolineare i riferimenti culturali e politici di questo progetto milanese, Bakunin, Malatesta, eccetera, eccetera. Il tutto si può rintracciare sul loro profilo Bandcamp. Molto morriconiani in questo frangente, come tanta tradizione neofolk. E torniamo dalle nostre parti, qui a Roma. New Precision Order, progetto parzialmente elettronico che vede nelle proprie file Alessandro Papa, Marcello Fraioli, Gloria Bazzocchi. E questo era il terzo lavoro del 2017 che uscì per Old Europa Café dal nome At War with Christ and Satan. Jack Parsons, Babylon Working Rituals e Clifotlic Evocation, con ospite anche Dolpo, progetto ritualistico industriale. Well, what's interesting is that in 1947, a lot of people don't know that they held a huge satanic ritual on the very spot where Area 51 is currently located. And Jack Parsons, who was involved with NASA, and they actually named a crater on the moon after him called the Parsons Crater, he conducted this magical ceremony called Babylon Working. Called Babylon working. Yeah. L'affresco policromo di New Persistent Order è questo At War with Christ and Satan. Una prima traccia con questi arazzi elettronici in odore di trance music e invece un secondo passaggio più incline ad atmosfere più sofferte e drammatiche. È un'ottima alternanza nei lavori di New Persistent Order, Alessandro Papa, Gloria Bazzocchi, Marcello Fraioli. Non ultimo anche un afflato alquanto ritualistico che pervade tutti i loro lavori, i loro quattro lavori fin qui stampati. Ancora più sofferto invece il panorama musicale di Pioggia d'Ambra. E ci stiamo per ascoltare la seconda parte di una lunga traccia che andava a chiudere questo lavoro del 2018, credo, anche se il materiale va dal 2012 al 2016, dal nome Visioni destabilizzanti dal reame delle ombre. Nera allucinazione, celando la nausea dietro un ostinato mutismo, seconda parte.